piazze sono 4. Il complesso di Santo Stefano è uno dei luoghi più antichi di Bologna e senza dubbio uno dei più suggestivi. È universalmente conosciuto come le sette chiese perché un tempo ospitava ben 7 edifici sacri. Tuttavia, soltanto 4 sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Si tratta della Chiesa del Crocifisso, della Basilica del Santo Sepolcro, della Basilica dei Santi Vitale e Agricola e della Chiesa della Trinità. Non tutti sanno che in antichità al suo posto sorgeva un tempio dedicato alla dea Iside, la dea della fertilità della mitologia egizia. Il culto di Iside era infatti popolare presso i romani al punto che l'imperatore Vespasiano fece coniare delle monete con l'effigie della dea. L'esistenza del culto precedente è testimoniata dalla presenza di una fonte di acqua sorgiva all'interno della Basilica del Santo Sepolcro, un elemento caratterizzante dei templi di Iside e che rappresentava il fiume Nilo. Murata in un fianco della chiesa del Crocifisso, è presente anche un'iscrizione di epoca romana dedicata alla dea, vittoriosa nel nome di Mario Calpurnio e Sestilia Armilla, e che faceva parte della struttura originale del tempio pagano. Alcune delle colonne utilizzate per costruire la Basilica del Sepolcro, inoltre, risalgono all'epoca romana e furono quindi riciclate per costruire l'edificio cristiano. Va detto che a partire dal IV secolo, quando il cristianesimo si affermò come religione ufficiale dell'impero romano, divenne consuetudine edificare le chiese su dei templi esistenti, mantenendo però una certa continuità di culto per incoraggiare i pagani alla conversione. I templi isiaci divennero per lo più chiese dedicate alla Madonna o alla Maddalena. A Bologna si scelse invece Santo Stefano, il primo martire cristiano, il cui nome greco significa corona di vittoria, per ricordare Iside vittoriosa. Fu Petronio a costruire il complesso? Probabilmente no. Il primo nucleo è rappresentato dall'edificio, un tempo rotondo, oggi ottagonale, ora noto come Chiesa del Santo Sepolcro, ed è antecedente al suo vescovato. Risulta che fu eseguito un ampliamento già nel 393 d.C., dopo il ritrovamento da parte di Sant'Ambrogio delle spoglie dei proto-martiri Vitale e Agricola nel cimitero ebraico che sorgeva nelle vicinanze. Non stupisca che sia stato il vescovo milanese a sovrintendere ai lavori. All'epoca Bologna era una diocesi suffraganea di Milano. Per celebrare l'evento venne così edificata la chiesetta del martirio e che oggi è nota come Chiesa della Trinità. All'epoca di Petronio, quindi, il complesso stefaniano era già consolidato come uno dei luoghi di culto principali della città, costituito dalle chiese del Santo Sepolcro, dal Martirio e dal cortile di collegamento, oggi noto come cortile di Pilato. I Longobardi, che occuparono la città nell'VIII secolo, costruirono la chiesa di San Giovanni Battista, oggi chiesa del Crocifisso, quella che si affaccia sulla piazza e che fu anche la loro cattedrale. Fu forse proprio il vescovo bolognese, tuttavia, a immaginare il complesso di Santo Stefano come una Gerusalemme in miniatura, identificando la sorgente d'acqua come il fiume Giordano e costruendo un simulacro del Santo Sepolcro. Da allora e per molti secoli successivi, la Gerusalemme bolognese è stata meta di innumerevoli pellegrini che non potevano permettersi di andare in Terra Santa. I bolognesi si spinsero un po' troppo oltre. Nel XV secolo, quando fecero girare la voce che all'interno della Basilica dei Santi Vitale e Agricola erano conservate le spoglie di San Pietro, entrando in diretta concorrenza con Roma. Questo naturalmente scatenò le ire del Papa, all'epoca Eugenio IV, che fece addirittura scoperchiare la chiesa e la fece riempire di terra. Solo 70 anni dopo venne riaperta al culto, per intercessione dell'arcivescovo Giuliano della Rovere, a patto che la digeria fosse smentita. Una curiosità. L'altare della Basilica dei Santi Vitale e Agricola è un'ara pagana rivoltata ed è posizionato a ridosso della parete di fondo, perché all'epoca della sua costruzione era uso celebrare le liturgie dando le spalle ai fedeli. La Chiesa del Santo Sepolcro è stata ricostruita nel XII secolo, periodo in cui furono decorate le volte e le pareti con degli affreschi, successivamente distrutti durante gli scriteriati lavori di restauro avvenuti nel 1800. All'interno si trova una colonna di marmo cipollino nero. Anche questa è risalente all'epoca romana e riutilizzata dai costruttori della basilica, indicata come la colonna contro cui Cristo venne flagellato. L'edicola al centro della chiesa rappresenta il sepolcro di Cristo. È qui che nel 1141 vennero rinvenute le spoglie di San Petronio, dove sono state conservate fino al 2000, prima di essere trasferite nella basilica a lui dedicata. Si narra che nel Medioevo il sepolcro venisse aperto una settimana all'anno e fosse tradizione per le donne incinte inginocchiarsi ed entrare attraverso la minuscola porticina per poi strisciare all'interno e pregare dinanzi alle spoglie del patrono bolognese. Il giorno di Pasqua, prima dell'alba, l'accesso era invece riservato alle prostitute bolognesi. Sebbene normalmente non fosse loro consentito di entrare nei luoghi sacri, in questa occasione era tradizione che percorressero l'intera chiesa in ginocchio, recitando una preghiera che rievocava il perdono di Cristo nei confronti della Maddalena. Uscendo dalla Basilica del Sepolcro, si giunge nel cortile di Pilato, rappresentazione del luogo dove fu condannato Gesù. Al centro c'è una vasca in pietra calcarea chiamata Catino di Pilato. Costruita dai Longobardi tra il 730 e il 740, è considerata la copia del bacile dove la leggenda vuole che il prefetto Pilato si sia lavato le mani. All'interno della Chiesa della Trinità è presente la Cappella dell'Adorazione dei Magi, che contiene il più antico presepe esistente al mondo. Si tratta di un gruppo di statue a grandezza naturale, realizzate in legno e risalenti al 1291, e che presentano ancora la colorazione originale, eseguita però circa un secolo dopo. La Chiesa del Crocifisso si chiama così per via del grande crocifisso appeso al centro dell'arco trionfale, opera di Simone dei Crocefissi e risalente alla fine del XIV secolo. Curiosa la pietà policroma realizzata da Angelo Pio nel XVIII secolo che si trova al suo interno. È stata infatti creata impastando le carte da gioco che le autorità avevano requisito durante una serie di retate, volte ad arginare la piaga del gioco d'azzardo. Nella cripta, a cui si accede scendendo alcuni gradini, c'è una colonna molto particolare. Secondo la tradizione, infatti, sarebbe stata portata a Bologna da San Petronio di ritorno dalla Terra Santa e rappresenterebbe, dallo zoccolo al capitello, l'altezza di Gesù, circa 1,70 m, piuttosto elevata per la sua epoca. Si dice che Dante Alighieri, durante il suo soggiorno a Bologna, amasse trascorrere del tempo presso il chiostro medievale del complesso stefaniano. Qui è ancora possibile ammirare i cosiddetti capitelli mostruosi. Si tratta di sculture presenti nei capitelli delle colonne, tra le quali spiccano un uomo nudo schiacciato da un macigno e un altro con la testa ruotata di 180 gradi. Pare che il sommo poeta ne abbia tratto ispirazione per alcuni dei supplizi descritti nella Divina Commedia. La piccola Venezia.